Radio 24 presenta Il sabato del villaggio di Marta Cagnola. Buongiorno, ci siamo con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è il nostro villaggio globale. Questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, insomma i nostri liberi consigli per il fine settimana. E nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Io vi tengo compagnia, ma anche voi tenetemi compagnia. Ci sono due strumenti rapidissimi per contattarci: l'SMS 349-238-6666 e il mio account di Twitter @MartaCagnola. L'hashtag sempre per chi usa Twitter, il sabato del villaggio, lo sapete, è un po' lungo, quindi usiamo le iniziali cancelletto ISDV. Ma ora scopriamo i temi della prima ora che passeremo insieme. Torna nel nostro sabato del villaggio ormai affezionatissimo il gastronauta, questa volta con Davide Paolini parliamo di coppie spericolate e andiamo a fare un viaggio a Bologna. Nella prima ora anche le tecnologie con Enrico Pagliarini, questa volta parleremo di luci, tanto, tanto cinema, ma iniziamo parlando di comicità. Bartolo, mi raccomando, ricordati di sistemare la stanza degli ospiti che ieri sera è venuta mia zia. Zia, non immaginavo che foste parenti, signore. Vabbè. Comunque ho quasi fatto, rimane solo che scrostare il perizoma di liquirizia dalla parete. Sei incollato alle manette di pelo, sa quelle... Alle manette di pelo, Bartolo. Vabbè. Mia zia è una donna molto originale, sì che... La parola donna non è quella che avrei usato io, signore. No. Comunque il rasoio e la schiuma da barba li faccio riporre o li recapito a suo... Zia. Cazzo, è discreto il tuo maggiordomo, come ti fai trattare così da uno sguattero? Cosa applaudisce? E questi erano Luca e Paolo con il maggiordomo Bartolo, che è Paolo Casiraghi, che è uno dei nuovi protagonisti di Colorado, che è ripreso questa settimana. Non sappiamo dire con quali dati di ascolto su Italia 1, perché come sapete ne abbiamo parlato anche diffusamente sabato scorso in RadioTube, ci sono dei grossi problemi con l'Auditel. Nel frattempo i dati d'ascolto sono stati sospesi nella loro diffusione pubblica, quindi sappiamo che Colorado è cominciato, che quest'anno sostituirà Zelig, che è a riposo, ma la comicità ha un po' permeato tanti dei linguaggi televisivi e non solo del nostro tempo. Andiamo un po' alla ricerca delle radici di questo fenomeno con un super esperto di comicità che gli amici del sabato del villaggio già conoscono, perché quando parliamo di comicità parliamo spesso con lui. Lui è un editore, l'editore di Sagoma, che è una casa editrice che appunto si occupa di comicità. Buongiorno a Carlo Amatetti. Ciao Carlo. Ciao Ciufola, questo super esperto mi ti ho un po' messo già in ansia. Lo so che può essere un po' ansiogeno, però di fatto è vero, Carlo, tu ti occupi di comicità, principalmente di comicità, da tanto tempo. Però sì, effettivamente dobbiamo dirlo che ultimamente in televisione in particolare il linguaggio comico è un po' dappertutto. Tu cosa ne pensi? Ma allora c'è un attimo da discutere, nel senso che più che altro è una fase di transizione questa qui, nel senso che corazzate come Zelig, come lo stesso Colorado che abbiamo appena sentito, eccetera, sono un attimo spiaggiate al momento. In particolare per quanto riguarda Zelig, questa aveva caratterizzato e anzi fagocitato il movimento, chiamiamolo così, comico televisivo italiano, perché aveva dato poi il ritmo a tutti gli altri, come dire, quello va bene, allora facciamo tutti così, perché poi in Italia, ma forse in tutto il mondo, non è che si è proprio tutti cuor di leone e tutti pronti a sperimentare nuove cose quando si sa che ce n'è una che funziona bene, e quindi si erano tutti accodati, in realtà creando parecchi problemi di omologazione comico-culturale dappertutto, perché poi questi ovviamente cosa fanno? Creano lo spin-off alla radio, lo spin-off in editoria, e qui ovviamente è un dolore per me, insomma tutta una serie di cose che ovviamente poi vanno a riempire spazi, riducendo spazi appunto a forme alternative e magari da un punto di vista qualitativo, io non dico migliore, però oddio, in alcuni casi migliore. Mi sbilancio, basta, ormai è andata, sono super esperto. Ormai l'hai detto, sì, ormai l'hai ormai detto. L'ho detto beh, certo, da super esperto. Però, che volevo fare? Siamo qua. Però da, sicuramente a garanzia di una maggiore eterogenia di cioè la comicità come forma culturale in realtà funziona anche quando è tra virgolette bassa, cioè va a colpire organi diversi da quelli che sono il mero intelletto, e il bello della comicità è che va bene lo stesso. Certo. Il problema è che quantomeno non azzerare gli spazi alle altre forme, ok, che giocano tutte con pari dignità, però caspita che almeno possano giocare tutte. Carlo, nella mia posizione, diciamo, abbiamo detto che Zelig è in pensione per un anno, sì, perlomeno. Sì, sembrerebbe sì, perché ha annunciato adesso la riapertura dei laboratori, e quindi significa che i laboratori non sono mai fine a se stesse, quindi dovrebbe essere il processo che, diciamo, nel medio-lungo periodo dovrebbe riportare l'anno prossimo di nuovo in televisione. Sì, perché forse non tutti sanno, soprattutto, cito la settimana enigmistica, forse non tutti sanno che questo lo conoscono soprattutto i milanesi. Zelig è davvero un locale e un laboratorio a Milano, ed è così che si trovano i nuovi comici, sì, nei locali. E non solo a Milano, nel senso sono laboratori in realtà sparsi un po' in tutta Italia, dove ovviamente poi c'è lo Zelig storico, che è ovviamente Viale Monza, che aprono appunto questo un processo molto lungo di selezione, che peraltro ha una piccola caratteristica, questo che in realtà è l'aspetto saliente, ma anche il difetto saliente di questo processo, perché alla fine tu fai tutto questo papocchio di selezione, no? A un certo punto individui quei N volti nuovi che sembrano appunto avere appunto donare un po' di freschezza, insomma tutto bene, poi alla fine però c'è quel gruppo di autori che è sempre lo stesso da 150 anni che dice ok, però adesso ti spiego io come far ridere. Ah, dico, quindi caspita, la freschezza della... ho appena fatto vedere che io posso essere una voce nuova, e invece poi gli dai, e allora devi durare 3 minuti, devi avere il tormentore, allora che stiamo a fare? Allora, io ho provocato un po' Luca e Paolo. L'altro giorno sono andata alla presentazione di Colorado, sì, e tra una polpetta e l'altra, perché eravamo in un noto ristorante milanese in cui si mangiano polpette, un ristorante che arriva da Diego Abbatantuono, quindi siamo sempre in fatto, okay, di comicità, okay. Ho chiesto loro cosa pensano di questo permeare della comicità tutto gli ambiti della televisione, ma non solo. Tanto però partiamo da questo: cosa pensano Luca e Paolo del fatto che il comico ormai è entrato in tutti i linguaggi televisivi? Beh, secondo me i linguaggi sono stati toccati quasi tutti, ultimamente poi ci sono delle trasmissioni comiche divertentissime, non so, tipo La Gabbia di Martedì, queste trasmissioni dove ci sono questi comici, certo più bravi dei nostri, molto più bravi dei nostri, che fanno, oltretutto ci sono questi tormentoni che girano, insomma è un momento in cui ci sono tante trasmissioni comiche, forse troppe, e noi ci inseriamo in questo orto, insomma. Continuate a dire i comici che hanno 20 anni meno di voi, e quindi di noi, mi fa un po' di, esatto, un po' i conti, siete un po' generosi nei confronti loro. Però certo è vero che c'è una generazione più giovane che preme. Purtroppo se avendo 46 c'è sicuramente qualcuno che preme, ma sono tutti scarsissimi, quindi non ne vedo così bravi all'orizzonte. No, ci sono anche dei grandi ritorni, quindi in questo senso sono più vecchi, però ci sono alcuni, no, ci certo, sono alcuni giovani. Comunque sì, fa impressione vedere. È ovvio che quando superi 40, quando sono proprio giovani, sono proprio giovani, nel senso che tra te e loro ci sono 20 anni, e quindi giustamente ci viene da dire, nel caso di Pampers, per esempio, insomma, che sono. Scherziamo sul fatto che speriamo benissimo, visto che sono una coppia che fanno più o meno le cose che facevamo noi e sono più giovane, gli auguriamo sempre che gli vada di merda. Ecco, questa è una cosa. Giochiamo con questa cosa qua. Però insomma, sono giovani e meno giovani. Ultima domanda, il cabaret vecchio stile, ma preme sempre di più la stand-up comedy anche in Italia, successi americani, e si comincia a sentire l'eco anche in Italia, cosa ne pensate? Ma io devo dire che da noi non ci sono, cioè ci sono degli stand-up comedian che però non fanno, cioè ultimamente io ne vedo un po' in giro che sono un po' dei traduttori, no? Che fanno un po' questa roba, che dicono le parolacce, a me fanno un po' sorridere, perché, come dire, se vuoi fare George Carlin devi avere i tempi di George Carlin, forse dire 4 volte fuck o 3 volte merda non è E quindi non lo so, è difficile, secondo me è molto difficile. È una cultura diversa, secondo me, la nostra. Non siamo, secondo me, fatti per quel tipo di comico. Non lo so, sarà il modo di esprimersi, sarà il padre americano, parliamo in modo diverso, ci muoviamo in modo diverso. E però quindi, secondo me, tanti, ce ne sono anche di bravi. Il rischio, secondo me, è sempre quello di fare un po' Little Tony, no? La sindrome Little Tony, cioè che sì, sei quella roba lì, però. Oh. Questa è la sigla in effetti di Colorado. Carlo Amatetti, sagome editore, quindi esperto di comicità. Luca e Paolo sono molto cauti sulla stand-up comedy, io li capisco, perché effettivamente è una cosa molto diversa da quella che fanno loro, da quella che si fa a Zelig o appunto a Colorado. Eppure adesso di quelli che non sono traduttori, che non fanno l'effetto Little Tony, cominciamo ad averne, Carlo. Ma allora io vedo delle resistenze reciproche, diciamo, tra i due ambiti. Nel senso che vedo gli stand-up comedian nuovi, ok? Magari spieghiamo per chi non frequentasse la stand-up comedy, è il comico da solo, appunto, che all'americana ha una grande tradizione, sì. Racconta fatti della vita di tutti i giorni, senza limiti di temi, si parla anche di sesso, senza limiti si parla di temi e di linguaggi, come faceva riferimento Paolo. Però in realtà, come dire, è la vera nota saliente è la libertà, ok? La libertà è il portare anche un po' se stessi, non solo quindi un repertorio scritto, ma probabilmente anche da altri, ok? Molto spesso, anzi nel 90% dei casi, lo stand-up comedian vero, ok? È perché scrive i propri testi da solo. Questo dice è un tecnicismo, insomma, così. Nel senso che oltre a mostrare anche una professionalità di un certo tipo, e non è che non ce l'hanno gli altri, ci sono tantissimi, ne conosco quanti ne vuoi, i cosiddetti cabaretisti, tanto per creare due macro aree che in realtà sono molto più contigue rispetto a quello che diciamo, che scrivono i loro testi, eccetera. Però diventa una caratteristica invece un po' più saliente per quanto riguarda lo stand-up comedian, perché porta sul palco più se stesso o comunque un punto di vista, ok? Che magari non è necessariamente il proprio, ma è in qualche maniera condiviso. Io sento appunto quello che dicevano Luca e Paolo, una lotta difensivista nei confronti di questo genere, perché dicono appunto questo scimmiottare l'americano, ma in realtà la vera differenza è tra chi fa la stand-up comedy bene e chi la fa male. Ah, certo. Molto semplicemente. Cioè, chi la fa male sta scimmiottando, ok? Ma anche magari perché non ha questa cultura, quindi vuole magari cavalcare un'onda positiva adesso, quindi vuole riciclarsi, eccetera. Oppure magari ha iniziato adesso, quindi non ha ancora acquisito un proprio stile e quindi il risultato finale sta scimmiottando qualcosa che non gli appartiene. Altri, magari dopo lunga gavetta, dopo lungo esercizio, eccetera, sono riusciti a sintonizzare su questo registro un proprio stile e lo fanno bene, ma è meglio scimmiottare George Carlin o che ne so io Oreglio, sempre scimmiottamento è. Allora ti chiedo subito a questo punto, visto che abbiamo ancora un minuto, Aurelio poi si arrabbierà con te perché hai detto questa cosa. No, ma io sto dicendo due bravi. Esatto, due perché bravi, siete due amici. Due categorie diverse. È lo scimmiottamento che invece è deteriore. Certo. Un consiglio, visto tra che amico appunto Aurelio che saluto caramente. Esatto, siccome tuo amico l'ho detto perché magari non si capiva, però no, siccome tuo amico l'ho specificato. Assolutamente. Carlo, grazie, mi hai salvato in cuore. Carlo, sì, ti ho salvato dalla telefonata successiva. Esatto. Consiglio, dacci in un minuto qualche nome da seguire, poi ce li cerchiamo in rete perché poi fanno serate un po' dappertutto. Qualche nome, visto che la nuova tendenza è la stand-up comedy e gli stand-up comedians, qualche nome da tenere d'occhio? Allora, ci sono ovviamente il gruppo dei Romani che ormai ha cominciato ad avere una sua nomea, quindi stiamo parlando, parlo di gruppo, ma in realtà è una roba appunto che non è che una formazione, giocano appunto in ordine sparso e abbiamo il Montanini che avete ormai visto su Rai 3, abbiamo Saverio Raimondo, abbiamo Velia Lalli, tanto per citare anche delle donne, perché non è che siamo qua, eh? Certo, sì. Allora, mentre ad esempio tra i giovanissimi, io segnalo Luca Ravenna, che incomincio a vedere un po' da qualche parte, che è stato lanciato, tra virgolette, adesso è all'inizio del lancio, come dire, è molto vicino alla fionda, diciamo così, però facendo un, come dire, l'open mic a Roma, in realtà è un milanese, ok, che a Roma ha iniziato facendo gli open mic in alcuni, cioè, locali. Microfono aperto, il sì, locale sì, che dà il microfono a disposizione e chi sale si esibisce. Esatto, esatto, e lui ha subito convinto, con questo sostizio un po' milanese a Roma, mettiamola così, però subito è riuscito in qualche maniera a essere molto personale. Bello, bello. E questo io vi consiglio di seguirlo perché mi piace molto e vediamo insomma come andrà, ecco. Grazie mille, grazie a Carlo Amatetti, ricordo Sagome Editore e la sua casa editrice specializzata in comicità, quindi tutti i testi comici che ha pubblicato Carlo. Grazie per essere stato con noi, alla prossima. A voi, Carlo. Saluto, buon sabato. Grazie, noi ci risentiamo tra pochissimo, le indicazioni per chi viaggia, poi saremo ancora insieme col Sabato del Villaggio. Il Sabato del Villaggio. Sono molto felice di essere nel vostro paese. Che c'è là dentro? Ah, niente, è solo un regalo di nozze dei nostri compagni di lavoro. Sa, mi sposo con lui. Vede quel giovanotto bruno, alto, bello lassù? Quello con le bandierine? Bravo, quello lì. Ma che cosa le hanno regalato i suoi compagni? Non sarà mica una bomba, eh? Che dice? Una mortadella. Carne di maiale, molto buona. Ah, allora avevo ragione a dire che era una bomba. Non si possono introdurre carni nel nostro paese. No, la mortadella è una specie di salsiccia. Non so come la chiamate voi, non c'è nel dizionario. È come il salame, ma sì, molto meglio, capisci? Più delicata. I'll say goodbye to all my sorrow, and by tomorrow questa clip e anche questo brano di Harry Nilsson, che era nella colonna sonora, è tratta da un film diretto da Mario Monicelli, in realtà un po' dimenticato, un film del 1971 che si intitolava La Mortadella, e non l'ho scelto a caso, è il momento del nostro gastronauta Davide Paolini. Ciao Davide. Ciao, ciao Marta. Non so se te lo ricordi questo film, ma c'era Sofia Loren che era abbarbicata questa mortadella che le volevano confiscare negli Stati Uniti. Ma guarda, è un film un po' dimenticato. Lei raggiunge il fidanzato negli Stati Uniti e non vuole privarsi di questa mortadella, e ne succedono di tutte per colpa di questa mortadella che non vogliono far sbarcare negli Stati Uniti. Perché la mortadella è molto amata, diciamocelo Davide. Ma è amatissima, solo che, sai, viene sempre vista, è stata vista forse per lungo tempo, con il muratore con il cappello di carta di giornale che mangiava il panino, e quindi è stata un po' sminuita nella sua vera qualità, perché la mortadella è un grandissimo prodotto ed oggi sta tornando di grandissima moda e per contrasto sta diventando chic. Sai perché? Ha trovato un compagno di viaggio che si chiama Champagne. Oh, e oggi... mortadella e champagne, le coppie spericolate di Davide Paolini. No, ma guarda che non è solamente mia, perché molti la utilizzano in questa maniera, ma tu pensa, una fetta sottile in cui ti metti in bocca tutta intera e poi lasci andare giù e arrivano queste bollicine che ti puliscono la gola. Ecco, l'importante della mortadella comunque è di tagliarla finissima. A Bologna dicono che dalla fetta si deve vedere San Luca, mentre c'è ancora il partito dei dadini, ma io sono per le fette sottili, anzi sottilissime. E a proposito di Bologna, ti devo dire che in questo momento a Bologna, per 3 giorni, fino a domani sera, mi pare, sì, fino a domani sera, c'è Mortadella Bo, dove tutte le strade di Bologna sono invase dal panino alla mortadella. Ci sono grandi chef che cucinano con la mortadella e quindi è una grandissima festa. Ma ti devo anche dire che l'abbinamento chef, grandi chef con la mortadella è un fatto usuale, che se ne pensi. Ti dico che Fulvio Pierangelini anni fa ha inventato un piatto che si chiamava Cappesanta alla mortadella, che era strepitoso. E poi quello che oggi è il leader massimo, Massimo Bottura, ha un piatto in menù che si chiama Ricordo di un panino della mortadella. Quindi insomma viene snobbata, ma in realtà è ancora uno straordinario prodotto. E come ti dicevo, a Bologna ci sono una ventina di chef che tutti cucinano dei piatti con la mortadella presente. Quindi questo sta ad indicare anche la duttilità di questo prodotto. Il panino alla mortadella è agognato sempre da tutti. ma deve essere anche il pane, deve essere particolare, insomma non è che si può lasciare tutto così al caso. Poi ci sono anche delle mortadelle, pane un panino con la mortadella, ma magari in mezzo con provolone oppure anche con peperoni, insomma ha una costabilità molto molto molto allargata la mortadella, quindi si può utilizzare in tutte le maniere, insomma non è la Cenerentola, è veramente una regina della cucina la mortadella, quindi viva la mortadella. In radio ci stiamo guardando tutti con grande desiderio, immaginandoci grandi panini con la mortadella. Passiamo all'itinerario, Davide, ti va di passare l'itinerario? Sì, allora, aspetta che entriamo in atmosfera, entriamo in atmosfera. C'è una regola per cui se non fai l'amore subito non sei davvero sicuro di te. E c'è una favola per cui chi mangia una mela fa il peccato più grande, più brutto che c'è. C'è una regola per cui l'infinito sembra un otto sdraiato per terra come me. Quando guardo le stelle così normale pensare che questa vita è bellissima, anche se a volte ci tira giù, qualcosa ci tira giù, e che Bologna è una regola che hai provato a spiegarmi tu, non lo dimentico più. Davide, Bologna è una regola, dice Luca Carboni. Direi che il titolo è perfetto, è Bologna una regola. Io parlavo prima di Bologna mortadella, tant'è vero che questa manifestazione si chiama Mortadella Bo, e poi la Mortadella IGP si chiama Mortadella IGP Bologna, quindi però Bologna... Dalle mie parti si chiama semplicemente il Bologna. Quindi il Bologna, è proprio... Sì. Da altre parti la chiamano anche mortazza. Ah, certo. Quindi, ma Bologna è tortellino. E guarda caso, dentro il tortellino ci deve essere per forza la mortadella. Allora io ti do alcuni luoghi sacri a Bologna dove mangiare. Facciamo questo itinerario dentro la città. Prendo nota. Al cambio da Max Poggi, dove oltre a un menù tradizionale che è appunto fatto da tortellini in doppio brodo addirittura, come una volta le lasagne, si possono mangiare anche altri piatti, perché anche qui c'è il menù tradizionale come spesso si trova a Bologna, ma poi ci sono anche piatti creativi. Ma un altro locale dove sicuramente, ecco, qui di regola veramente la tradizione è l'Osteria della Bottega, e qui si mangiano tortellini in brodo di cappone oppure anche tortellini asciutti passati in padella. Quindi, ma non c'è, appunto, dicevo, a Bologna solamente il tortellino o le lasagne, ci sono dei cuochi molto bravi, ad esempio c'è Scaccomatto, un certo Mario Ferrara, che non è bolognese di origine, ma è a Bologna da tanti anni, che prepara dei piatti molto molto succulenti, diciamo del sud, con alici con la panzanella, per esempio, oppure raschiatelli con sugo di capocollo. Bene, io una volta in questo ristorante ho mangiato un piatto che, quando l'ho visto scritto, ho detto non è possibile. Non è possibile perché questo piatto diceva gelato di anduia con le alici. Ora, io non so se qualcuno in ascolto, anche tu stessa, hai presente l'anduia. Sì, però col gelato non mi viene tanto... diventa gelato, con quel sapore diventa gelato, ma pulisce l'acciuga. E quindi è una combinazione che pare una contraddizione, ma invece è veramente strepitoso. Questo piatto di Scaccomatto a suo tempo mi aveva stregato, ma come vi dicevo, lui fa anche altri piatti, ad esempio raviolino al parmigiano, cipolla liquida. Però voglio anche dare, visto che ricollego Bologna, ricollego la mortadella, un abbinamento che io ho chiamato un abbinamento, lo scambio delle coppie, che era proprio la mortadella con lo champagne e le ostriche con il lambrusco. Allora, di Gasparossa, a suo tempo molti avevano gridato al sacrilegio, ma qui c'è molta Emilia, c'è molta Romagna, perché appunto c'è da un lato appunto la mortadella, dall'altro c'è il lambrusco. Ebbene, questi abbinamenti che sembrano dissacrare un po' quelli che io chiamo l'aritmetica del gusto, che sono tutti precisi, perfetti, dettati dalle bibbie del buon gusto, in realtà ogni tanto bisogna anche fare delle cose regolate e seguire quello che è il proprio gusto, perché il proprio gusto ce lo formiamo, non ce lo dobbiamo fare formare da altri. Non dobbiamo dipendere da quello che viene scritto anche dai critici, compreso il sottoscritto. Bisogna anche andare oltre, allenare il proprio gusto, poi arrivare a un finale che è quello che diciamo interessa. Però un'ultima battuta sui ristoranti di Bologna. Io adoro moltissimo la zuppa come dolce, e molte volte non si trova più da nessuna parte. Ah, è vero, vero. E allora io dico, beh, cari ristoratori, a Bologna si trova ancora la zuppa all'inglese. Mi ero dimenticato l'inglese, ora lo aggiungo. Ah, io l'ho capito, io da amante di dolce al cucchiaio non avevo avuto dubbio, neanche per ecco, un istante. Magari una volta che faremo una trasmissione sui dolci, racconterò anche la storia, perché si chiama zuppa all'inglese, ma magari la posso anche raccontare. Dici, la zuppa all'inglese deriva da una babysitter inglese che, diciamo, teneva i bambini del console inglese a Firenze. Un giorno padre e madre se ne sono andati, hanno lasciato i bambini con appunto questa babysitter inglese, la quale, per farli star buoni, ha trovato tutto quello che c'era a casa di dolce, li ha messi assieme ed è nata la zuppa inglese. E da allora ha avuto un successo incredibile. Quindi credo che molte volte per caso nascono delle cose che sono straordinarie anche in cucina. Beh, fantastico. Dov'è che la mangiamo questa zuppa all'inglese ancora, che si trova sempre meno di frequente? La zuppa all'inglese si può mangiare al cambio, appunto, di Bologna, la puoi mangiare, e poi c'è un cannolo strepitoso che si può mangiare da scaccomatto. Visto che siamo nei dolci, ti do due scelte. Straordinario. Ho in programma presto un weekend a Bologna. Non vedo l'ora di andarci, di provarli tutti. Grazie. Ciao Davide, tutti. Grazie per essere stato con noi. Ci ritroviamo allora al prossimo Sabato del Villaggio. Un abbraccio. Sempre grazie a Davide Paolini. Che bello averti in trasmissione. A sabato prossimo. E beh, abbiamo abbracciato a distanza Davide, che nel frattempo ci è cascato. Vabbè, insomma, lo ritroviamo ancora alla solita ora, il prossimo sabato del villaggio. Tra poco però è il momento di parlare di tecnologie, dopo una breve pausa, una pubblicità, un momento di riposo, ma poi siamo ancora insieme col Sabato del Villaggio. Il Sabato del Villaggio. Ci siamo con la seconda mezz'ora della prima ora del Sabato del Villaggio, il sabato in diretta di Radio 24. Della è il momento quinta settimana o della terza sesta. Lo sai che sono una ragazza precisa. Niente, c'è Enrico Pagliarini subito. Eccolo qua. Senti Enrico, hai un tema che mi incuriosisce molto, anche perché mi hai detto è bellissimo. Io non ne so diciamo niente. Che non si vede, ecco, si vede, per non radio si non vede. Si vede, però dai, si allora immagina un po'. Introduciamolo e poi scopriamo qual è questo tema. Take me out tonight, where there's music and there's people and they're young and alive. Driving in your car, I never want to go home, because I haven't got one anymore. If a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a tent on shore. Beh, Enrico, ti accolgo con gli Smiths. Ti piacciono gli Smiths? A me lo riconosci. Li ho sentiti nominare, però penso di non averli mai sentiti. Questa canzone si intitola There is a light that never goes out. In realtà è una canzone d'amore anche molto estrema, molto... Gli Smiths. Sì, Smiths. Devo scoprire questo gruppo. Sono inglesi? Sono inglesissimi. E questa canzone ha, secondo me, tipo del 90... due, credo, cioè qualche annetto. È una canzone anche prima, fine anni 80. Fine anni 80, si sente dalla chitarra. Sì. The Queen is Dead, esatto. Registrazione novembre 85, poi ristampata nel 92. Ma perché ho scelto There is a Light? Ma poi perché stiamo parlando degli Smith tutto il perché pomeriggio. Tu non li conosci e ti informo. Esatto. Vabbè, comunque domani io mi tu ti fai una domenica pomeriggio. Allora facciamo una cosa. Smith. Tu Smith. ti fai una cultura sugli Smiths, sì, e io mi faccio una cultura sulle luci. Sulle luci, esattamente. Sì, sì. Perché dobbiamo, allora, perché Enrico mi ha detto: ah, ho un argomento bellissimo per oggi, le luci. E io luci, ho detto: ok, luci. Ma mi cosa fida, dobbiamo dire delle luci? Dunque, sta cambiando il mondo grazie agli smartphone, le applicazioni e il wifi, perché tutti questi strumenti che conosciamo, perché magari li utilizziamo nella nostra vita, cominciano, allora, in realtà già da qualche anno, però stanno cominciando a diventare un po' più popolari, un po' più facili da utilizzare, i prezzi si stanno gradualmente un po' abbassando. Di fatto oggi possiamo comandare le lampadine con il nostro smartphone e quindi possiamo fare molte più cose rispetto ad accendere e spegnere la lampadina come siamo abituati nelle nostre case. Alcune di queste cose erano possibili già anni fa, se noi chiamavamo un tecnico e ci facevamo installare tutta una serie di cose, di centraline in casa, si potevano fare, non è che stiamo parlando di cose che non si potevano fare. Però oggi la tecnologia è diventata così semplice che noi compriamo una scatola con dentro un po' di cose, andiamo a casa, la installiamo in modo veramente molto facile, mm-hmm, e facciamo quello che fino a qualche anno fa, a parte che costava molti soldi, poi prevedeva anche, insomma, un po' di progettazione di impianto. Ci sono sostanzialmente due modi per fare tutto ciò. Lampadine che si collegano ad una centralina, questa centralina va collegata al nostro router di casa e di fatto poi al wifi, e da lì noi con lo smartphone comandiamo le lampadine, oppure ancora più recentemente società che propongono proprio la lampadina wifi, che quindi si collega direttamente con la rete wifi, proprio la lampadina da sola. Io monto la lampadina e questa qua è già in rete, fantastico. E no? Cosa fa una lampadina? Cioè, si possono che cosa fare gli possiamo tante cose chiedere? Allora, noi abbiamo una nostra applicazione che comanda le lampadine. Direi che ad oggi forse l'unico grande problema di questo mondo è che ogni marca ragiona per proprio conto, cioè se noi ci facciamo un impianto con la marca XYZ poi dobbiamo mantenerci all'interno di quel mondo lì. Però insomma, che cosa possiamo fare? Allora, intanto, cosa più semplice, accendere e spegnere, ma questo lo possiamo fare anche con l'interruttore, certo. Non è che abbiamo bisogno dello smartphone per accendere facciamo e spegnere, una figu- facciamo una figurona con gli amici facendo vedere che lo però però diciamo che se uno deve fare tutto sto in maradana per accendere e spegnere lampadine, no, può fare quello che si poteva fare, o se può fare ancora oggi, insomma, con quegli interruttori che regolano l'intensità della lampadina. Questa cosa si può fare con lo smartphone, con l'applicazione. Però anche qua uno dice: vabbè, sono seduto sul divano, non sì, mi devo sì, alzare. Comunque, però che modulare l'intensità della luce. Allora, ecco, entriamo invece in un ambito un po' più divertente. Visto che stiamo parlando di lampadine LED, perché oggi questa è la nuova tecnologia che si sta espandendo e imponendo, alcune di queste lampadine sono solo bianche. Ok, quindi hanno varie gradazioni di bianco, cioè varie intensità di bianco. Però ci sono anche lampadine LED che possono fare milioni di colori. A questo punto io con la mia applicazione posso decidere che una lampadina o un gruppo di lampadine diventano tutte blu, tutte rosse, tutte gialle. Bellissimo. E io posso raggruppare le lampadine, fare degli scenari preimpostati, quindi che ne so, io dico: alla sera mi piace la musica classica, alla sera sto ascoltando la musica jazz e io voglio le mie lampadine che posso installare, che ne so, nella lampada da tavolo, in giro per la casa, e imposto lo scenario jazz, che magari, che ne so, è arancione, oppure se ci piace il blu, ecco, il blu molto jazz. Molto Blue Note. Esatto, molto Blue Note. Io posso preimpostare questo scenario e mi faccio la casa blu. Quindi no? è un elemento aggiuntivo dell'arredamento, possiamo dire. Ah, sì, però attenzione, posso fare molte altre cose. Posso fare anche delle routine, cioè posso dire: allora, care lampadine, accendetevi domattina, cioè tutte le mattine, oppure anche solo domattina, alle 7, che mi sveglio e voglio svegliarmi con la luce blu. Oppure la luce rossa, così vengo colpito quello, da... O la camera oscura o qualcos'altro, sì, Enrico, sì. Non vabbè, addentriamoci. Colore, Ok, verde, sì, okay. Che ci si sveglia con una luce più... molto dolce. Posso ad esempio dire, tutto tramite l'applicazione, posso ad esempio dire al gruppo di lampadine, anche la lampadina singola, accendetevi secondo uno schema che magari scimmiotta un gruppo di persone che stanno in casa. Quindi io potrei antifurto? Essere anche via e potrei anche essere lontano, perché se io posso collegarmi via wifi a queste lampadine, di fatto poi posso collegarmi anche via internet. Quindi io potrei, diciamo che normalmente accendere, spegnere o cambiare il colore delle lampadine se io sono via non è che ha molto senso, Però posso far finta che ci sia qualcuno, posso far finta simulare la presenza di qualcuno in casa. E posso farlo in modo automatico. Certo. Quindi posso, insomma, tutte queste cose. E poi cosa succede? Che alcuni produttori, cito Philips, che ha lanciato già da un po' di tempo, sta spingendo molto su un prodotto che si chiama Hue, che è scritto H-U-E, che fa tutto ciò, che ha aperto il proprio standard agli sviluppatori. E gli sviluppatori si sono sbizzarriti, hanno fatto un sacco di applicazioni sfruttando la creatività per fare altre cose. Ma no, cito quella più facile, però poi largo spazio alla fantasia. Un'app che con il microfono dello smartphone capisce, secondo un certo algoritmo, che musica c'è magari in casa mia e fa cambiare l'illuminazione in base alle luci, in base alla musica. Potrei anche fare la discoteca, no? Certo, io certo. Ho queste luci che fanno colori diversi, con questa app io metto magari una musica dance e questa app fa il classico, o il classico, quello che voglio io, perché ci sono tanti scenari possibili anche in quel caso. Quindi spazio alla fantasia, si possono fare un sacco di cose. Vedo sul sito, mentre mi dicevi, ho curiosato, sì, che parlano anche di sincronizzare le luci con i film, è vero? Sì, si può decidere di avere una... un'illuminazione più adatta. Esiste l'app che si può sincronizzare. Io sto guardando un film. Allora, a me piace guardare il film proprio al buio, proprio senza. Però se uno desidera creare un ambiente che magari amplifica quello che sta vedendo sullo schermo, c'è anche questa possibilità. Tra le varie app che ci sono, tra le varie possibilità delle app che ci sono, c'è anche quella di sincronizzare le luci che io ho con quello che succede nel film. Quindi, che ne so, scena con grande luce, non è solo nello schermo, ma anche la stanza si illumina. Ci è arrivato un messaggio al 349-238-6666. A questo non avevamo pensato. Mm-hmm. Nasce una nuova forma d'arte, arredamento d'interni, fatto via internet con artisti che pilotano le luci di casa tua. Sì, sicuramente. Io posso anche immaginare, non penso che esistano già, però posso anche immaginare che io dico a, che ne so, a un sito, ad un artista, ad un servizio, come è fatta la mia casa, dove sono le mie luci, e ci possono essere dei designer che mi dicono: ascolta, per 20 euro io ti faccio degli scenari adatti alla tua casa. È una possibilità che è permessa da queste tecnologie. Allora, quanto costano questi aggeggi? Infatti stavo per arrivare alla domanda. Allora, no, non costano come una lampadina singola, costano un po' di più, però non costano neanche una follia. Cioè, intanto devo cambiare tutte le lampadine di casa? Beh, sì. Perlomeno delle attacchi, stanze. Sì, però sì, gli attacchi sono gli stessi, Cioè, io svito la lampadina classica e vito la lampadina nuova, moderna, di questo tipo. Sono lampadine LED, quindi consumano anche molto meno rispetto alle lampadine tradizionali, anche se sappiamo che ormai sono fuori legge le lampadine classiche col filamento. Sì. Dunque, prendo come esempio Philips, che ha lanciato questa linea che si chiama Hue. Un pacchetto con tre luci multicolore, quindi quelle che possono fare fino a 16 milioni di colori e cambiare, e la centralina che le pilota costa 200 euro. Adesso do dei prezzi di massima, poi sul mercato in realtà si trovano anche a meno. Un pacchetto con due luci bianche e una centralina, 100 euro. Due luci bianche e una centralina. Una lampadina singola bianca si trova 30-40 euro sul mercato. Ma io posso magari comprare una luce e poi mano a mano aggiungere lampadine? Sì. Certo. Okay. Diciamo che in questo scenario c'è la necessità di questa centralina, però c'è l'altro scenario che dicevo prima, di aziende stanno iniziando proprio in questi ultimi mesi a uscire sul mercato. Lampadine che sono collegate direttamente alla rete wifi, quindi sono direttamente wifi, costano, diciamo, c'è una marca che è uscita sul mercato recentemente dopo un test di qualche tempo, che si chiama Lifx, LIFX. Cioè l'IFX. L'IFX, esatto. L'I come luce, ci siamo arrivati. LIFX, ok? 60 euro per una lampadina, poi dipende anche dalla lampadina, c'è anche una lampadina che costa 100, in questo caso stiamo parlando di dollari, ma insomma, giusto per farci capire, per dare un'idea. Mi sembra molto divertente perché appunto si possono fare cose molto nuove. Allora è arrivato un SMS che provoca. Mario da Parma dice: l'unico problema è che invece per fare un piatto di pasta lo smartphone o il wireless non sono ancora adatti, andate in cucina e datevi da fare. Fabio, vabbè, sappi che non capisco... Pagliarini è anche un bravo cuoco, sì, quindi sì, esatto. Non provocarlo, perché lui è un bravo cuoco, quindi lampadine, dopodiché wireless. È vero poi... anche una cosa, che lo smartphone può essere utile perché se uno non è proprio praticissimo di ricette, trova una ricetta al volo. Oppure il contaminuti, no? nello smartphone. Sì. Per sì, la sì. pasta, beh, senti, allora sì, insomma, lì vale anche il metodo tradizionale, uno prende fuori lo spaghetto e lo sente, no? Pagliarini straordinario. Okay. A proposito di minuti, 15 e 45 minuti, quindi diamo la linea, le informazioni per il traffico, sì, poi... No, sì. Voglio dire, non è che il nuovo cancella il vecchio, Ah no, certo. Io sono per le certe cose, vanno fatte alla vecchia maniera, però ci sono delle possibilità nuove. Io, francamente, non è che sento l'esigenza di avere degli scenari a casa mia, però francamente ci sono invece delle persone che invece secondo me sono proprio adatte ad avere delle case particolari che godono anche di questa novità, quindi mi sembrava giusto sottolinearlo. Sono d'accordo, molto divertente. Bene, a tra bene, pochissimo bene. Enrico, a tra pochissimo, okay. Ancora col Sabato del Villaggio. Il Sabato del Villaggio. I never winked back at fireflies, but now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light. I'm beginning to see the light. Ma hai detto che volevi un po' di jazz, bellissimo, un po' di Ella Fitzgerald, ci può stare con le luci. Aggiungo, faccio proprio una postilla. Ci sono anche, qua stiamo parlando dell'ambito della smart home, che è un movimento che sta crescendo sempre di più, ci sono anche... gli interruttori wifi, quindi io potrei addirittura il frullatore attaccarlo all'interruttore wifi, collegarmi all'interruttore wifi con lo smart, va bene, parliamo un'altra volta. La macchinetta del caffè prima di svegliarti, già col telefonino, sì. Babbia, che però, pigrizia, che pigrizia, no, che pigrizia. Ci possono essere degli scenari invece che sono giusti, no, certo. Però li facciamo, è un argomento interessante, sì. Riparleremo di queste, sì, di queste novità che riguardano la casa, però è il momento della nostra app della settimana. App della settimana si chiama Neuronation. Neuronation, allora neuro è una cosa che ha a che fare col cervello, no? Dunque è un'applicazione molto divertente, devo dire, però può diventare anche molto difficile per tenere in esercizio il cervello. Ci sono giochi di vario genere per mettere alla prova la memoria, la capacità di concentrarsi e non farsi distrarre da altre cose e in generale la nostra intelligenza. Quindi ci sono vari generi di giochi. L'ultimo che ho fatto un po' di prove, l'ultimo che ho fatto era collegare un esercizio per la memoria, collegare le palline che appaiono sullo schermo con il tratto del dito, quindi sì. L'app ti fa vedere una linea che collega queste palline e poi tu devi collegarle strisciando il dito sul display. Cioè te le devi ricordare? Ti devi ricordare come sono collegate. Come sei andato, Enrico? Il problema è che dopo un po' sono stato eliminato. No, sei perché, stato bocciato sì, dopo perché un il po'. Sì, perché il problema è uno parte, 3-4 palline, e dice vabbè, ma... cioè è facilissimo, no? Poi quando cominciano ad essere 7-8 con 12 pallini ti devi ricordare questa striscia, però anche qui ci si mette la prova, poi più si allena più si allena, poi ci sono insomma, giochi giochi molti sono esercizi che sono molto a volte divertenti, a volte bisogna proprio concentrarsi. Lo Stormi dice che ci sono più di 4 milioni di iscritti, vuol dire che in tanti stanno allenando, sì, ma chissà sì. se... Loro fanno un sacco di nomi di professori tedeschi che l'hanno studiato. Sì, perché dietro ci sono anche studi che hanno aiutato gli sviluppatori a creare un'app che sia adatta effettivamente a stuzzicare il nostro ingegno, esercitare la memoria, eccetera eccetera. Esiste per tutte le piattaforme, per, diciamo, per le tre principali piattaforme, e quindi insomma è anche abbastanza disponibile sul mercato. Arrivati ad un certo punto uno può decidere anche se comprare qualche cosa. Infatti vedo cosa, acquisti in app, sì, però anche... diciamo che molte cose si possono fare tranquillamente con la versione gratuita di base dell'app, però se uno si fa prendere ad un certo punto, insomma, non diciamo molto di più, perché lasciamo agli ascoltatori. Sì, uno prova, anzi diteci la prossima settimana, sì, se avete provato Neuronation. Neuronation. C'è scritto Neuronation. A proposito di memoria, ricordaci 2024 quando? 2024 è andata da ieri sera, abbiamo parlato di ad blocking, che è un tema di cui avevamo già affrontato però in modo anche più di sistema, abbiamo parlato di macchine automatiche, di robot, di pagamenti elettronici eccetera, la trovate sul nostro sito in podcast. Grazie Enrico, al prossimo sabato. E anche domani alle 13.30, non l'ho detto, vabbè. Adesso lo dico adesso. Sabato. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Tra qualche giorno il tuo partito, il governo, salta tutto per aria. Cederò ai miei referenti di partito. I tuoi referenti non esistono più. Possiamo comprare chiunque. Qualcuno di voi avrà già riconosciuto l'audio di questo film, una delle uscite importanti di questa settimana, Suburra. Ne parliamo subito con il nostro super esperto Franco D'Assisti. Buonasera Franco, allora cosa facciamo? Andiamo a vederlo? Beh, assolutamente sì. Beh, come puoi non mancare all'appuntamento dell'anno, no? Cioè non vedere Suburra quest'anno è non vedere il film che tutti aspettano, tra l'altro con una cassa comunicazionale straordinaria, che per un film italiano anche di un certo tipo, di un certo genere, è cosa abbastanza rara. Sì, no, poi lo andiamo a vedere perché è un bel film, perché è veramente un bel film, è un film che, come dire, Sollima ha cesellato da ormai esperto e sicuro padrone di un genere, quel genere romanzo criminale, chiamiamolo così, che ha visto negli ultimi anni nelle serie televisive e nei film, anche in Gomorra, in romanzo criminale appunto, nel suo ACAB per esempio, i suoi momenti più alti, che in questo Suburra forse supera un po' se stesso, anche per un tempismo straordinario nel raccontare, dal romanzo di De Cataldo alla stesura del film, alla realizzazione, arrivare al momento giusto per raccontare Mafia Capitale, per raccontare quello che sta succedendo. Non è un film su Mafia Capitale, ma insomma gli elementi sono veramente tanti sullo schermo, e sono tanti anche gli attori di grande talento italiani, per Francesco Favino, Elio Germano, Claudio Amendola, Alessandro Borghi, che sarà tra l'altro nostro ospite alla Rosa Purpurea fra poco qui su Radio 24, a raccontarci questo percorso con Sollima in Suburra, ma anche la sua partecipazione in Non essere cattivo di Caligari, che rappresenterà l'Italia agli Oscar. Insomma, è un film che contrassegnerà in maniera forte la stagione italiana, e quindi bisogna non mancare l'appuntamento. Un film però, dobbiamo dirlo, dal quale si esce sempre abbastanza arrabbiati, perché sono storie toste, sono storie che ci raccontano la realtà. Invece io non l'ho visto, però ho visto i trailer e sono molto incuriosita da questo stagista inaspettato. Secondo me non si esce arrabbiati, no, da questo. No, qui non si esce arrabbiati, no. Anche perché il marchio di fabbrica è quello di Nancy Meyers, che è la regina della commedia del benessere, della commedia da cui esci col sorriso un po' riappacificato, insomma, far star bene le persone non è un mestiere facile, soprattutto al cinema, e Nancy Meyers ci prova sempre, poi che ci riesca sempre perfettamente è tutto un altro conto. In questo caso sicuramente la coppia è di quelle abbastanza ben assortite, perché abbiamo Robert De Niro e Anne Hathaway. Robert De Niro nei panni di un settantenne pensionato che, per dare un po' un senso alla sua vita, ricomincia da capo, ricomincia da 40 anni prima, ricomincia dal ruolo di stagista, e però lui vede il mondo con gli occhi di uno che l'esperienza ce l'ha già, e da questo contrasto nasce un po' il lievito di questa storia, che è una storia gradevole, che ti fa uscire piuttosto ben colpito, e anche con un Robert De Niro che Nancy Meyers riesce a tenere un po' nelle briglie. L'alchimia funziona e il prodotto è gradevole. Questa settimana un sacco di titoli anglofoni. C'è un film con un titolo inglese che però non è inglese, The Lobster. Questo è uno dei due film, diciamo, di, come si usa dire, di fantascienza distopica, che escono questa settimana. L'altro è Maze Runner. The Lobster però è un esperimento che fa pensare al cinema di Anderson, per intenderci, la storia di un mondo prossimo Venturo nel quale i single non vanno bene. E allora i single devono essere messi sostanzialmente in quarantena, 45 giorni per trovare un partner, altrimenti sei trasformato, vieni trasformato in un animale. Ecco, questo è un po' l'assunto di partenza, che è abbastanza bizzarro, e però il racconto molto intimista di un futuro che vorremmo evitare, ma che forse anche da animali potremmo affrontare con una maggiore libertà. Mi incuriosisce molto. L'appuntamento con te è dopo il giornale radio delle 18 con La Rosa Purpurea, e poi ci rivediamo sabato prossimo. A sabato prossimo, Franco D'Assisti. Ciao Marta, ciao a tutti. E al sabato del villaggio è il momento di parlare di libri. Perché mi sei venuto a cercare? Per darti la mano. La Befana ti porterà sul conto della fondazione un paio di milioni di euro. In cambio mi serve la legge sulle periferie. Ma siamo qua, che succede? Forse diventa come Las Vegas. Tu devi fare solo la tua parte, il resto ci penso io. C'è stato tu? È stata Roma. Beh, ancora Suburra ne abbiamo parlato con Franco D'Assisti, è la grande uscita al cinema di questa settimana, ma dietro Suburra c'è un libro. Io voglio sapere tutto di questo libro con Alessandra Tedesco. Ciao, ma io Alessandra. Voglio sapere prima tutto sul film, com'è il film? E vale davvero la pena andarlo a vedere. Paradossalmente la cosa meno riuscita forse è la sceneggiatura, la scrittura, ma gli attori sono fortissimi, le ambientazioni sono davvero incisive, la regia è quella di Sollima, quindi vale davvero la pena vederlo. Io però non ho letto il libro, quindi non ti so dire. Io non ho visto il film, però ho letto il libro. Ne facciamo una come sempre. Allora, il libro è stato pubblicato da Einaudi nel 2013. All'epoca fu un grande successo, l'avevano scritto Giancarlo De Cataldo, quello per intenderci di Romanzo Criminale, e il giornalista di Repubblica Carlo Bonini. Ebbe successo perché raccontava una storia che poi lentamente si è venuta a scoprire come vera, come reale. Cioè, il romanzo è ambientato tutto in sei mesi del 2011, in cui praticamente palazzinari, politici si corrompono a vicenda perché devono fare una lottizzazione, insomma devono costruire case, palazzi e così via. La caratteristica del libro è che ci sono sia i personaggi buoni che i personaggi cattivi. Infatti all'inizio del romanzo c'è proprio un elenco, come si usava fare un tempo sui gialli Mondadori, dove vengono scritti i personaggi. Allora, i personaggi, ci sono per esempio gli esponenti dello Stato, e fra questi il buono Marco Malatesta, che è un tenente colonnello, poi ci sono gli intoccabili, poi ci sono i banditi a Roma, cioè quelli della Romanina e quelli di Ostia, i fuoriclasse, fra cui c'è il samurai che è il cattivissimo, insomma, del libro, i ribelli e così via. Quindi è, come dire, un noir che trae spunto fortemente dalla realtà, e poi possiamo dire che la realtà ha superato la fantasia. Secondo me possiamo davvero dirlo. Devo dirti che già c'è una differenza con il film, perché nel film sostanzialmente non ci sono i buoni. Ah, li hanno tolti. Allora, io ho chiesto proprio questa cosa qualche giorno fa, l'abbiamo incontrato Stefano Sollima. Ecco perché il film in realtà non ha proprio i buoni. Non sono neanche tutti personaggi negativi, è un film corale, e trovo che rispetto al romanzo di Carlo Bonini e Giancarlo De Cataldo, il cui protagonista era un carabiniere che quindi ci portava attraverso differenti mondi seguendo un'indagine, ovviamente ci avrebbe anche semplificato il lavoro di trasposizione cinematografica, però ritengo sempre più interessante partire dai personaggi e dai mondi senza esprimere un giudizio morale, quindi bene o male racconti degli esseri umani, e mi sembrava più interessante farlo attraverso i personaggi, ciascuno di questi rappresentativo di un mondo, e tutti questi mondi insieme creano, interagiscono e formano la Suburra. Beh, Beh, Alessandra, ovviamente viene consigliato a quelli come me che hanno già visto il film e quindi vogliono sapere. Ma magari devono ancora vederlo. Io preferisco prima leggere il libro di vedere il film. Diciamo che io dipende. Ecco, diciamo che se ho già letto il libro sono contenta di vedere il film. Altrimenti, beh, insomma, mi vedo il film e poi. Però nel libro ci sono anche i buoni, quindi c'è un pochino di speranza. Mentre in romanzo criminale, anche lì ambientato negli anni 70, invece la banda della Magliana, non c'era possibilità di speranza alcuna, almeno nel libro Suburra c'è, come dire, l'idea che qualcosa si può salvare. Allora leggiamolo dopo aver visto il film, così prendiamo un po' di fiato. Però Alessandra, tu ci avevi annunciato che avresti fatto un compito. There was a boy, a very strange enchanted boy. Avevi annunciato che avresti letto Anna di Niccolò Amaniti e mi hai detto che la canzone giusta per introdurre Anna è questa. Sì, perché lo stesso Niccolò Amaniti ha dichiarato in un'intervista che questa canzone che si intitola Nature Boy è stata cantata da Nat King Cole, da Billie Holiday e da tanti altri, è la canzone che secondo lui interpreta meglio l'umore, il personaggio della protagonista di questo romanzo, che si intitola appunto Anna. Io quando leggo i libri non voglio sapere la trama, non leggo la bandella, quindi sono andata proprio così, alla cieca. E devo dire che all'inizio mi ha un po' ricordato alcune scene di Io non ho paura. È presente quando il bambino è sepolto, diciamo, è nascosto in questo buco nella certo. terra e gli altri ragazzini lo scoprono, quindi vedono quella manina, questa cosa un po' inquietante. Perché anche in questo nuovo romanzo di Amaniti, Anna, i protagonisti sono tutti ragazzini. Perché si immagina un mondo nel 2020 in cui c'è un virus che arriva dal Belgio, il virus si chiama La Rossa, che uccide tutti gli adulti, tutti quelli che superano i 14 anni. Quindi Anna è una ragazzina di 13-14 anni che si deve prendere cura del fratellino più piccolo e deve sopravvivere in questo mondo dove non ha più i genitori. È molto struggente, molto drammatica la scena nella quale muore appunto la madre e lascia un quaderno delle cose importanti, dove la mamma lascia scritto tutte le cose di cui potranno avere bisogno, cosa fare per l'elettricità, per l'acqua, per la batteria, il fuoco, le amicizie. E poi c'è un capitolo che riguarda cose da fare quando mamma muore. Insomma, il romanzo, devo dire, è anche un po' inquietante, Marta, perché comunque si vede questo mondo di ragazzini soli, tutti orfani, che vivono in questo paesaggio ormai distrutto, nel senso che non esistono più supermercati, devono cavarsela da sola per ricavarsi il cibo, per riuscire a sopravvivere, ci sono bande di cani che cercano di aggredirli, eppure ci sono dei rapporti belli che si vengono a creare. Quindi è un romanzo forte, non ti nascondo che ci sono dei momenti in cui insomma si fa un pochino di fatica a restare sereni, soprattutto se ci si immerge a 360 gradi. E lo consiglio innanzitutto a chi ama Amaniti e non ci sono dubbi, ma lo consiglio anche a chi vuole immaginare così un mondo veramente diverso dal nostro. Spero impossibile da realizzare, ma insomma i ragazzini hanno tante capacità. Non so se sono pronta ad affrontarlo ancora, perché tosto. È troppo tosto, è un signore delle mosche un po' difficile da affrontare, devo essere pronta, lo consigliamo a quelli che sono pronti ad affrontarlo. Sì. Altri consigli, Alessandra, per questo sabato del villaggio? Guarda, c'è una tendenza ultimamente che ci sono autori che scrivono appunto libri e che fanno sviluppare il turismo nel luogo dove sono ambientati i loro romanzi. Vabbè, un esempio per tutti: Camilleri, sappiamo che Vigata è un paese immaginario ma che dovrebbe corrispondere grosso modo a Porto Empedocle, comunque in quella zona è aumentato il turismo da quando certo. i Montalbano insomma hanno successo. Anche gli scrittori svedesi, per esempio Henning Mankell, che è proprio morto purtroppo alcuni giorni fa, lui è stato il creatore dell'Ispettore Wallander, ambienta i suoi gialli in un paesino della Svezia meridionale piccolissimo, Istad, e viene organizzato il tour su luoghi dei dei delitti. Anche sempre per rimanere fra gli svedesi c'è il Millennium Tour, cioè a Stoccolma il Museo Civico organizza proprio dei tour per seguire le tracce dell'investigatore Mikael Blomqvist, scusate la pronuncia, ma insomma lo svedese non è il mio forte, e l'hacker Lisbeth Salander, che poi è la vera protagonista di Millennium, della saga Millennium. E invece c'è una scrittrice spagnola di cui avevamo accennato qualche settimana fa, che si chiama Dolores Redondo, ha scritto una trilogia thriller che in Spagna è di grande successo, ambientata a Elizondo, che è un paese piccolissimo fra la Navarra e i Paesi Baschi. Il romanzo si intitola Il guardiano invisibile, pubblicato in Italia da Salani, e lei ha fatto, come dire, sviluppare il turismo in questi luoghi. Sentiamola. Quando io termine di scrivere il libro, il primer libro, entonces me pregunté, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo la gente va a interpretar esto? Quando ho finito di scrivere il primo libro, mi sono chiesta come la gente lo avrebbe interpretato. E me lo chiedevo sia per gli abitanti di Elizondo, sia per la polizia. Perché nel mio libro i poliziotti spesso non corrispondono all'immagine che di solito si ha di loro. Però ho iniziato a farmi queste domande solo dopo aver scritto il libro. Sono molto felice perché molte persone, dopo aver letto il libro, hanno cominciato a venire in questo paesino cercando i luoghi del romanzo, la casa della zia, il commissariato, la pasticceria. E questo ha portato molti benefici a un paese al quale sono affezionata. Dopo pochi mesi che è stato pubblicato il romanzo, la polizia di Navarra mi ha dato un riconoscimento per l'immagine nazionale e internazionale che avevo trasmesso di loro attraverso il mio libro. E sono stata molto contenta. Che si supponeva che è molto beneficiosa per loro, también estoy muy contenta. Ma Alessandra, l'intervista quella del dolcetto, quando sei stata in Spagna e mi hai sì, portato dolcetto? Era il serial killer che appunto lascia sue vittime, sulle sue adolescenti, questo Cianciugorri, questo dolcetto come firma dei suoi delitti. A chi lo consigliamo questo Allora, romanzo? Io lo consiglio anche a chi non è abituato ai thriller, perché la scrittrice mescola un po' il thriller e la storia del passato di questa ispettrice che indaga su questo caso. Quindi magari gli amanti proprio del thriller serrato possono avvertire un po' di fatica, perché il ritmo ogni tanto magari si perde, mentre può avvicinare i lettori onnivori a un genere che magari normalmente non apprezzano. Mi piace molto, per chi non avesse preso nota di tutti i testi di cui abbiamo parlato questa settimana, a parte il podcast radio24.it, ci ritrovate il sabato del villaggio. E poi li twittiamo, naturalmente, io come Ale Teddina, tu come Marta Cagnola, certo. E poi li trovate anche sulla pagina Facebook /radio24 del Cacciatore di Libri. Quindi, che va in onda, sentiamo se è preparata. La mattina alle 6:30 del sabato e la sera alle 22. Stasera, tra l'altro, ci sarà l'intervista integrale a Dolores Redondo. Che meraviglia, Alessandra. Noi ci ritroviamo sabato prossimo. Grazie. Bacetti a tutti. Il sabato del villaggio. E rieccoci nel nostro sabato del villaggio, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche tecnologia, libri e consumi. È il momento di scappare, ma da dove dobbiamo scappare? Cosa dobbiamo fare? Lo chiediamo subito a Maria Luisa Pezzali. Ciao Maria Luisa. Ciao Marta, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, immaginati rinchiusa in una stanza semibuia, senza finestre, piena di enigmi e rompicapo da risolvere, con soli 60 minuti di tempo per fuggire. Ma è un videogioco? No, non è un videogioco, è un gioco dal vivo, è il fenomeno del momento, l'ultima moda in fatto appunto di intrattenimento e divertimento sono i giochi di fuga dal vivo. Ah. Una moda che sta veramente esplodendo, nate qualche anno fa in Giappone, le escape room, è questo la definizione tecnica, si sono diffuse rapidamente soprattutto negli Stati Uniti, adesso sono arrivate anche in Italia. Una delle realtà principali che le propone in più città è Intrappolato, scritto intrappola.to. Ah, ok, Intrappolato. tavola. Ok, questo To sta ad indicare Torino, che è la città da cui sono partiti gli ideatori. Daniele Massano è uno di loro, l'ho intervistato, mi ha raccontato tutto, ascoltiamolo. A Torino hanno giocato circa 18.000 persone ad oggi. A Milano, dove abbiamo aperto a maggio, hanno giocato circa 7-8.000 persone. E poi abbiamo aperto a Rimini e a Genova nel mese di agosto, quindi i numeri sono più bassi, ma comunque stanno crescendo molto. Come si svolge? Raccontiamolo. Sì, allora, il tempo a disposizione sono 60 minuti, anche se in realtà, a differenza degli altri giochi di fuga che ci sono in Italia e all'estero, il nostro inizia fin dal momento della prenotazione, in quanto il ragazzo, comunque il gruppo di amici che si prenota al nostro gioco, riceve una mail all'interno della quale ci sono già dei giochi da risolvere a casa, che consentiranno poi, al momento in cui ci si presenta nella sede scelta, di entrare nella stanza mediante un codice che va digitato su una tastiera che c'è fuori dalla porta. Nei normali giochi di fuga il gruppo viene accolto da un addetto del gioco, il quale spiega un po' la situazione, eccetera. Noi invece abbiamo puntato su una cosa un po' diversa, nel senso che i partecipanti arrivano e non vengono accolti, entrano direttamente nel gioco, rimanendo un po', forse un po' più in ansia di quanto potrebbero essere se venissero accolti. Naturalmente tutta la sessione di gioco è monitorata da un addetto che segue, che in alcuni casi aiuta dando dei suggerimenti piuttosto che aiutando le persone in difficoltà su qualche enigma o su qualche gioco. Tanto per dare un'idea, il mood che noi abbiamo cercato di dare è quello di uno scantinato un po' abbandonato, nel quale si viene rinchiusi, non si sa bene da chi né per quale motivo, e bisogna cercare di uscire prima che la persona che tra virgolette ti ha rinchiuso dentro o vi ha rinchiusi dentro torni per fare chissà che cosa. Il gioco non è horror, non c'è niente di particolarmente spaventoso, è inquietante, quindi se viene un gruppo di adulti che magari hanno visto decine di film del terrore, magari si sentono un po' in soggezione. Se viene una famiglia con due bambini di 6 o 7 anni, giocano tranquillamente perché non ci sono delle cose che spaventano. È come se fossero andate a giocare nella cantina del nonno abbandonata e si trovano un sacco di oggetti da giocare. Quindi è molto lasciato all'individualità la sensazione che si prova. La stanza ha la porta chiusa, ma all'interno c'è una maniglia rossa o, a seconda della sede, un pulsante rosso che consente in qualsiasi momento di aprire la porta e tornare all'aria aperta per tranquillizzarsi nel caso uno si sia fatto prendere un po' troppo dall'agitazione. Non penso che sia mai stato usato da nessuno. Che cosa viene richiesto? Quali sono gli ostacoli che bisogna superare? Tantissimi. Il nostro gioco è molto difficile, cioè riuscire a uscire dalla stanza è possibile, ne abbiamo alcuni gruppi che sono riusciti a uscire alla prima partecipazione, ma normalmente è molto difficile. È difficile per due motivi. Primo motivo, perché ci sono tanti giochi da risolvere, giochi di nature completamente diverse, ci sono dei giochi di logica, giochi pratici, giochi meccanici, c'è tantissimo da fare. Quindi la percentuale di riuscita più o meno l'avete calcolata? La percentuale di riuscita è mediamente del 2%, non necessariamente alla prima partecipazione. Beh, una percentuale del 2%, quindi molto difficili. Una bella sfida. Infatti, tra l'altro, un'altra delle cose, Marta, che mi raccontava Daniele, è che viene usato anche per il team building aziendale. Ah, certo. Cosa perché dici? Così ci si mette d'accordo, esatto. Si capiscono i meccanismi, esatto, di interazione. Possiamo proporlo qui a Radio 24. Secondo me non usciamo mai più proprio dalla stanza. Non usciamo vivi proprio. No, rimaniamo chiusi per sempre, neanche quel 2%. Però bella anche come idea, così per una giornata diversa tra amici. Mi piace. Assolutamente, infatti come vedi i numeri stanno crescendo incredibilmente, un successo veramente esagerato. A volte, Marta, anche così dai fenomeni, dalle mode, piccole o grandi che siano, si riesce a raccontare la società e anche insomma le passioni delle persone molto più che con tanti altri strumenti. Mi è piaciuto molto, anzi mi piacerebbe cimentarmi, anche se insomma non ho la presunzione di entrare in quel 2%. Maria Luisa. Allora adesso è il momento, come sempre delle nostre strategie anticrisi. Negli anni della crisi, lo sappiamo, Marta, sono cresciute molto le marche cosiddette fast fashion, cioè della moda low cost. Sono curiosissima perché Cristina Lazzati, Cristina, ci sei? Ci sono, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio, Cristina. So che ci hai preparato una serie di consigli doc per quanto riguarda gli acquisti online. Assolutamente, mi sono chiesta in questo momento in cui, diciamo, a tutti piace fare shopping, però il nostro portafoglio comunque non è, ahimè, è infinito, anzi talvolta piange, soprattutto verso il fine mese, il fast fashion ovviamente offre una serie di possibilità anche di comprarsi la cosina sfiziosa senza dover spendere troppi soldi. D'altra parte però uno si chiede, sì, ma l'ho comprato io, ma l'avranno comprato altre 100. Allora ho detto, come fare dell'esclusiva stando sul fast fashion? Ho detto, ma sì, ma c'è internet. E ci sono una serie di marche che in Italia non ci sono, sono presenti solo in una o due città, dove si può fare shopping online in linea di massima a poco prezzo, si hanno dei capi tra virgolette esclusivi. Vi cito i primi due che mi sono venuti in mente, che sono Cost Store e Another Stories. Entrambi sono due marche che appartengono al gruppo di H&M, sono già presenti in Italia, Another Stories c'è a Milano, lo stesso vale per COS, che forse ha anche altri punti di vendita, ma non molti, credo un altro paio in giro per l'Italia. Entrambi hanno un sito online dove spediscono, ho guardato anche i prezzi delle spedizioni, perché uno dice risparmio sui vestiti, COS è più, diciamo, signora un po', come dire, anche se hai qualche chiletto in più va benissimo, ed Another Stories è più parigino, viene disegnato infatti a Parigi, mentre COS è disegnato a Londra ed è un pochino più sfizioso, con un sacco di accessori e di scarpe. Comunque la spedizione in Italia costa 9 euro. Te lo mando in 5-6 giorni. Diciamo che per il fast fashion ci sta, non sì. Ci fa, certo. Non fa tanto la differenza. Poi ho chiesto un po' anche ai giovani che mi girano per caso, avendo un figlio di 20 anni, mi hanno detto anche American Apparel vorremmo un po' di più. American Apparel c'è a Milano e a Roma, due punti di vendita, e American Apparel spedisce anche gratis sopra i 75 euro. Anche in questo caso parliamo di moda giovane, anche tanto bambino, molto colorata, molto simpatica e divertente. Poi ci sono quelli che proprio i negozi in Italia non ce li hanno, e parlo di Uniqlo. Ah, questo credo... sai che colpisce al cuore subito, perché siamo delle grandi fan, che in Italia non c'è, appunto. In Italia non c'è, da quelle voci di corridoio dicono che siccome vuole location enormi e in pieno centro, per Milano vorrebbe dire Piazza del Duomo, ancora non ha trovato nessuno che gli vende un intero palazzo. O che gli dia direttamente il Duomo, perché visto grandi spazi ce ne sono pochi. Sì, diciamo che forse le vetrine del Duomo è meglio che le lasciamo così. Mia nipote è andata in Inghilterra in viaggio studio quest'estate e subito le ho detto comprami qualcosa da Uniqlo. Sì, sì. Ecco, perché di fatto Uniqlo ha due, diciamo, linee fondamentali per cui è conosciutissimo. Uno sono i piumini leggerissimi di ogni colore e, devo dire, ogni anno si aggiungono anche nuove forme. E l'altra cosa sono tutti i capi tecnici contro il freddo. Sono giapponesi, per cui è tutto tecnologia made in Japan, e si muovono al leitmotiv di moda per tutti, molto moda democratica. Allora, in questo caso spediscono, perché i punti di vendita che abbiamo più vicini sono uno a Parigi e parecchi a Londra, anzi due ormai a Parigi. Sul sito ci sono anche tante esclusive che non si trovano in negozio, e in più ci sono anche più taglie rispetto al negozio, quindi consoliamoci, non ce li abbiamo, ma il sito offre anche di più. L'espedizione entra a 4 giorni lavorativi e costa 7 sterline e mezzo, quindi un po' di più degli altri, però di fatto se vogliamo fare i resi, in questo caso la spedizione del reso è a carico nostro, per cui attenzione a prendere le taglie giuste, però c'è tutto quello che serve per farsi tutte le misurazioni e trovarsi i capi giusti. Poi c'è Forever 21, altro grande hit tra i giovanissimi, anzi tra le giovanissime, che spedisce anche in Europa. 2-5 giorni lavorativi, il costo a quanto pare è fisso sempre di 6 euro. Un'ultima segnalazione di una marca che invece in Italia non è conosciuta ed è poco conosciuta in Europa, ma sta andando fortissimo in Oriente, che si chiama Style Nanda. Style Nanda è sudcoreana, Oggi la Corea detta un po' legge, almeno da quella parte del mondo, in termini di stile. Qualcuno dei nostri grandi stilisti sta già un po' grabbando lo stile che arriva da lì, e Sainanda spedisce sopra i $200 gratuitamente, ma non in tutti i paesi. E devo dirvi la verità, sono stata tentata di fare un ordine per vedere se in Italia arrivava, ma mi hanno fermato in tempo e quindi ho lasciato per ora perdere. Comunque, altrimenti spedisce in base al peso di quello che uno compra. Per gli appassionati di fotografia, un ultimo indirizzo, molti che sono appassionati lo conoscono, è B&H, sta a New York, ha un negozio enorme di fotografia, qui non siamo sull'abbigliamento, ma sono foto, cine, ottica, eccetera, eccetera, di elevatissima qualità e di prezzi assolutamente più bassi di quelli che possiamo trovare qui, e B&H spedisce in tutto il mondo. Il sito è bhfotovideo.com. Straordinario. Io vado subito a controllare il sito coreano adesso. Anch'io, nella pausa, fortunatamente non ho la carta di credito in studio, quindi posso solo guardare. Grazie Cristina per i tuoi consigli sempre preziosissimi. Grazie a voi e buon pomeriggio a tutti. Ciao, a presto. Di consiglio in consiglio invece l'appuntamento con Essere e Avere, Maria Luisa? Domani alle 22, ti dico solo Marta che mi sono già adeguata al nuovo orario, quindi domani parlerò di Playboy, non dico nient'altro. A domani sera allora. Un saluto a tutti. Il sabato del villaggio. E spesso parliamo di serie TV al sabato del villaggio perché sono tanti, tantissimi gli appassionati di serie TV che ci ascoltano. È il momento di andare a scoprire cosa sta andando in onda di nuovo, soprattutto di andare a curiosare già nei palinsesti americani, perché ci sono tutte le cose interessanti che noi vedremo in Italia a brevissimo. Allora intanto andiamo a scoprire con un primo audio qualcosa che mi incuriosisce davvero tanto. Here's what happened. I was in New York, I ran into Josh, he made me feel warm inside, like glitter was exploding inside me. Then I moved here. I did not move here because of Josh, because that would be crazy, and I am not crazy. You know, a buddy of mine just moved back from New York, Josh Chan. I know him! Do you know where he went, though? Because I'd love to, like... You moved to California? What are you doing? Quando lui ha twittato di questa serie TV, io ho detto, mi sa che la devo per forza vedere perché mi incuriosisce moltissimo, per il titolo e anche per la prima immagine che il nostro ospite ha twittato. Allora, diciamo subito che il nostro ospite si chiama Francesco Chignola, che è un giornalista di TV Sorrisi e Canzoni, ma che è notissimo in rete con lo pseudonimo di Checkoz. Buonasera Francesco! Buonasera Marta, ciao! O buonasera Checkoz, visto che ti chiamiamo in entrambi i modi. Sul mio telefonino sei segnato come Francesco, tra virgolette, Checkoz Chignola, quindi ci sei con entrambi i nomi. Così sono impossibile sbagliare. No, non ti posso perdere. Esatto. Francesco, Crazy Ex-Girlfriend. Io sì, ho visto, forse perché mi sono un po' immedesimata col titolo, no, scherzi a parte, tu hai detto vale la pena, e io che sono molto attratta da queste serie ho detto, beh, voglio subito sapere dove va in onda. Hai già curiosato tutte queste serie americane? Cos'è Crazy Ex-Girlfriend? Allora sì, innanzitutto volevo specificare per tutti che l'immagine che di cui tu parlavi è l'immagine di questa ragazza che penzola dal cielo seduta su un enorme pretzel. Esatto, adesso sto recuperando il tuo tweet così lo retweetto. Che dà l'idea, diciamo, di cos'è, del tono della serie. Allora, Crazy Ex-Girlfriend è una serie che va in onda su un canale molto, molto giovane, ma che sta facendo delle ottime cose negli ultimi anni, che si chiama The CW. È una serie in cui che racconta la storia di questa ragazza che incontra un suo fidanzatino del campo estivo per caso per strada, e lei è una molto ragazza in carriera che ha dedicato tutta gli ultimi 15 anni della sua vita al lavoro, decide di mandare tutto all'aria, lascia New York e si trasferisce in questo paese pulcioso della California, bruttissimo, da 4 ore dal mare, un posto in cui nessuno vorrebbe vivere mai, perché in questo paese lei ha scoperto vive questo suo ex fidanzatino, e chiaramente ha dei problemi mentali questa ragazza, anche se vuole ammetterlo, e diciamo il modo anche in cui si esprime questa sua, diciamo, non proprio integrità è in degli incredibili numeri musicali che interrompono la narrazione. Quindi è praticamente quasi un musical. Nella prima puntata ci sono 3 numeri musicali, uno dei quali particolarmente divertente è dedicato agli sforzi che una ragazza deve fare per rendersi presentabile, per uscire la sera, mentre gli uomini invece stanno seduti sul divano fino all'ultimo momento, poi escono come sono vestiti e vanno fuori. Questo è più o meno il tono molto scherzoso. La serie è molto divertente, effettivamente, in Italia non si sa quando la vedremo, ma probabilmente poi arriverà. E la protagonista si chiama questa ragazza molto brava che si chiama Rachel Bloom, che non è un volto noto, è una praticamente emergente, anche se qualche anno fa aveva fatto un video virale che aveva avuto un certo successo su YouTube, in cui lei dichiarava il suo amore non proprio puro per Ray Bradbury, che però ha una certa età, e era diventata una piccola star su internet. Comunque la serie veramente merita di essere vista, sì. So già che me ne innamorerò. Invece sto vedendo un sacco di tweet dall'America, soprattutto su questo Quantico. Tu hai già curiosato, Francesco? Sì, ho curiosato, come sai, una volta si diceva mi hanno mandato le videocassette da New York. Diciamo che è l'ultima settimana pre-Netflix questa, sì, poi esatto, rivedremo tutte le nostre abitudini. Sì. È una settimana abbastanza impegnativa per chi è appassionato di serie TV, perché dal 22 ne arriveranno uno sfracello e non avremo più una vita sociale. Però intanto possiamo parlare di questo Quantico un po' in anteprima, perché in realtà arriverà su Fox, quindi su Sky, tra un mesetto, credo metà novembre. È una serie molto divertente, se uno piace lo stile, che racconta praticamente dall'addestramento di questa ragazza di origine indiana in un addestramento per l'FBI, quindi insomma questi corsi durissimi in cui vengono addestrati a essere delle macchine da guerra, però è raccontato nel presente l'addestramento dell'FBI, e poi 9 mesi dopo questo terribile attentato nel cuore di New York, una specie di nuovo 11 settembre, di cui questa ragazza è accusata. Urca. Quindi la narrazione si svolge sia al presente con lei che si addestra, sia al futuro con lei che cerca di, come il fuggitivo, insomma come il classico fuggitivo, cerca di scolparsi di questa cosa, perché in realtà il colpevole, le dicono, è uno dei suoi, di quelli che è stato addestrato con lei all'FBI. Quindi intricatissima, però una cosa molto, molto fresca d'azione, e la cosa, secondo me, il vero valore aggiunto della serie è la protagonista, che è questa ragazza indiana, si chiama Priyanka Chopra. Anche lei non ha mai fatto niente in Occidente, ma è una superstar di Bollywood, è una che fa i miliardi, credo una delle più famose attrici indiane, che gli hanno offerto questa opportunità di andare a Hollywood e cominciare a fare una carriera in America, e si difende piuttosto bene, anche belloccia a vedersi. Perché no? Un minuto per un ultimo consiglio, che cosa dobbiamo tenere d'occhio, Francesco? Sì, allora, secondo me un paio di serie velocissime che ti dico. Una si chiama Scream Queens, è una serie creata da Ryan Murphy, che è il regista di Glee, l'autore di Glee. Dovrebbe arrivare in Italia nei primi mesi del 2016, è un omaggio, diciamo, all'horror classico, un po' sopra le righe, come sono sempre le sue serie. La curiosità è che una delle protagoniste è Jamie Lee Curtis, che avendo fatto Halloween insomma parecchi anni fa, è una Scream Queen, cioè una principessa, diciamo, del cinema dell'orrore. E poi un'altra cosa velocissima, una serie comica, quelle brevi da 20 minuti, che si chiama The Grinder, in cui c'è Rob Lowe che fa un attore di sitcom dove faceva l'avvocato, che si convince che lui può fare l'avvocato anche nella vita, perché l'ha fatto per 10 anni in televisione, e quindi dice adesso io posso fare l'avvocato anche nella vita vera. E suo fratello gli dice sei completamente pazzo, ma ovviamente riuscirà a fare l'avvocato, perché essendo una serie americana tutto è possibile. E poi essendo Rob Lowe, diciamocelo, per Rob Lowe tutto è possibile. Può andare dove vuole Rob Lowe. Sì. Grazie a Francesco Chignola, chiocciola Checkoz, non solo giornalista di TV Serie Canzoni, ma anche molto, molto attivo in rete, quindi chiocciola Checkoz. Grazie Francesco, alla prossima occasione. Ciao Marta, ciao. Noi ci ritroviamo invece tra poco, dopo il giornale radio delle 17, perché ci cambiamo d'abito, perché dobbiamo parlare di tutta l'attualità della rete e dalla rete, perché sarà il momento di dare il via alla nostra ora di RadioTube.